America, in the face of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Well, what's going through me right now is the welfare and emotional stability of my children. When I think of John, that is who I think of first, of my three children. How are they coping? They are coping one moment at a time. Certain emotions are starting to... Larry King su CNN è montato sopra alla notizia, una delle notizie del giorno, perché oggi è un giorno di lavoro per il boia in America, questa sera in una prigione della Virginia, vicino a una località che si chiama Jarrett, verrà messo a morte attraverso iniezione letale John Muhammad, noto anche da noi, anche in tutto il resto del pianeta, per la sua folle attività di cecchino delle autostrade durante il 2002 nella zona di Washington e dintorni. Sparò tante volte per tanti giorni di seguito, terrorizzando la popolazione sulle automobili dei pendolari che tornavano a casa, e la voce che avete appena ascoltato è quella di Mildred Muhammad, sua moglie, che ha rilasciato una intervista travolgente dal punto di vista emotivo, per l'appunto, a Larry King nel giorno che precede la condanna a morte del marito. Tra le altre cose ha detto di considerare se stessa il bersaglio finale di John. Sparava alle persone a casaccio per poi coprire il momento in cui avrebbe cercato di colpirla, e anche per questo motivo ancora oggi lei si sente in un certo senso colpevole, o compartecipe se non altro delle colpe che hanno portato alla morte di tanti innocenti. La prima moglie peraltro di John Muhammad, un personaggio che chissà perché ho la certezza che rivedremo presto sul grande schermo, è una storia che è destinata a finire in tragedia americana di stampo hollywoodiano. Comunque la prima moglie di Muhammad, che si chiama Carol Williams, andrà a trovare invece il condannato a morte pochi minuti prima della esecuzione, e porterà con sé il figlio che appunto Carol e John hanno condiviso. Nidal Hassan is a hero, he wrote. How can there be any dispute? E se è un giorno di morte, è anche un giorno di lutto oggi negli Stati Uniti d'America. Tra poco, alle 3 del pomeriggio, Barack e Michelle Obama, la coppia presidenziale, lasceranno la base dell'Air Force di Andrews per volare a Killeen, Texas, la cittadina più vicina alla base militare di Fort Hood, dove si è svolta la settimana scorsa quella tragica, folle sparatoria che ha portato a 13 morti e a un responsabile che in queste ore ha ripreso conoscenza e ora è in grado di parlare, il maggiore Nidal Malik Hassan, l'autore della strage di Fort Hood. Gli Obama si tratterranno a Fort Hood praticamente per tutto il giorno, a più riprese incontreranno i feriti, poi le famiglie delle vittime, terrà anche un discorso Obama, e si incontrerà anche con il personale medico della base, cercando di fare fino in fondo la sua parte. Nel frattempo escono particolari sempre più inquietanti che circondano la personalità di questo maggiore Hassan. Viene fuori che certamente esistono i presupposti per pensare a delle possibili connessioni, se non ufficiali, con Al-Qaeda, se non altro nel senso di una ispirazione per l'attività dell'organizzazione terroristica. Tra l'altro ci mette butta benzina sul fuoco al riguardo anche l'imam Anwar al-Awlaki, che da lo Yemen, dove attualmente risiede, via internet definisce la strage di Fort Hood un atto eroico e invita tutti i militari musulmani che in servizio nell'esercito americano a seguirne tragicamente l'esempio. Tra le altre cose emerge che Malik Nidal Hasan verrà giudicato da un tribunale militare non appena sarà in grado di affrontare gli interrogatori da parte delle autorità. Dopo George W. Bush e la moglie Laura, che hanno reso visita ai militari di Fort Hood in Texas ieri, è dunque imminente l'arrivo di Obama e sicuramente una grande esposizione mediatica per i fatti della strage e anche per il dibattito che da essi nasce. Primo piano. Nel frattempo, nel lunedì lavorativo, invece, Barack Obama si è occupato di un'altra questione centrale per la sua amministrazione, ovvero la questione israelo-palestinese. Si è incontrato ieri sera, a tarda sera, con Benjamin Netanyahu, che è arrivato a Washington ufficialmente per partecipare all'Assemblea delle Federazioni Ebraiche, ma ha poi preteso un confronto con Barack Obama, mentre sul settimanale Time, come forse vi è capitato di vedere, a Hillary Clinton viene in questo momento attribuito il merito di essere l'unica che veramente forse sta riuscendo a portare avanti un discorso costruttivo in questo senso. Cosa si siano detti Netanyahu e Obama si sa solo di seconda mano, ma qualche ragionamento al riguardo può essere rapidamente fatto, ma per farlo chiamiamo la persona che riteniamo più esperta sul argomento per aiutarci a darci indicazioni più precise, ovvero Maria Grazia Enardu, che insegna storia di Israele moderno all'Università di Firenze. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Buon pomeriggio. Ti sei fatta un'idea dell'incontro, degli esiti, più che degli esiti, diciamo, della direzione che questo incontro tra il presidente americano e Netanyahu può aver preso, può aver dettato, può indicarci come prossime prospettive? Innanzitutto un incontro assolutamente interlocutorio, e questo spiega anche la mancanza di dichiarazioni precise o di una conferenza stampa, oltre al fatto che è stato fatto letteralmente lunedì sera, e che è considerato anche una forma di scortesia diplomatica per un primo ministro in visita. Certo. Si sa che la Casa Bianca, Obama, ha confermato il forte impegno alla sicurezza di Israele. La domanda da porsi è cosa intendono gli americani per questo, perché la lettura del termine sicurezza è fatta in modo diverso sia a Washington sia a Gerusalemme. La cosa però che rende più interessante e più problematico questo incontro è il contesto in cui si svolge, perché ci sono voci consistenti non solo che Abu Mazen, il presidente dell'autorità palestinese, non si ripresenterebbe alle elezioni del 2010, come aveva detto più volte, certo, ma anche che potrebbe dimettersi dai suoi incarichi, e con lui se ne andrebbe buona parte o tutta l'amministrazione dell'autorità palestinese. Aprendo un vuoto di potere, naturalmente. Un vuoto di potere, un incubo amministrativo. Chi amministrerà il West Bank? Certo. Chiaramente non Hamas, che è un'organizzazione terrorista, quindi dovrebbe amministrarlo Israele, e questo per Israele forse è un incubo anche peggiore di vederla amministrata da Hamas. Ecco, per concludere, se volessimo sistemare il segnalino del decisionismo americano in questo momento nel prendere posizione nei confronti di Israele su questa questione del congelamento degli insediamenti, che è diventata un po', no, la cartina tornasole dell'avvio del dialogo dopo l'apparente, almeno, ammorbidimento di Obama, che cosa si può dire in queste ore? Che forse gli americani aspettano che il governo di Netanyahu faccia qualche altro errore prima di intervenire con più decisione, però questa è veramente un'ipotesi. Bene, grazie per questo punto a Maria Grazia Enardu. Tra l'altro vi ricordo che nell'attività internazionale di Barack Obama c'è anche in vista un viaggio in Giappone, che si svolgerà nella seconda parte della settimana. Ha anche espresso il desiderio di visitare Hiroshima e Nagasaki. Non lo farà in questa occasione Obama, ma ha detto che vuole farlo entro il corso della sua presidenza. Vedremo se manterrà la promessa che ha pronunciato. will mortgage my political career on this plan, but I will not mortgage the fate of the state of New York. Questo è il governatore dello Stato di New York, David Paterson, che può darsi che, insomma, nel pronunciare una frase così roboante, io posso fare un mutuo sulla mia carriera politica, ma non posso fare un mutuo sullo Stato di New York. Qualcuno, insomma, ipotizza che stia producendo più che altro uno spot elettorale per se stesso. Invece, lui dice di essere perfettamente sincero e soprattutto di invocare, di implorare in questo momento da parte del Senato di Stato, dei legislatori di Stato, dello Stato di New York, un immediato intervento economico per produrre tagli ai costi, ma in tempi, non dico oggi pomeriggio, ma stamattina, perché sostiene Paterson che lui e il ragioniere dello Stato di New York hanno fatto quattro conti. Questa è una notizia alla quale ormai ci stiamo abituando in arrivo dall'America, certe volte arriva dalla California, questa volta arriva dallo Stato di New York, che hanno fatto quattro conti e si sono accorti che hanno soldi per quattro settimane e mezzo, no? anche una sigla vagamente evocativa, dopo il quale bancarotta dello Stato di New York. Quindi con gli amministrativi Paterson avrebbe calcolato che o si risparmiano seduta stante 3,2 miliardi di dollari oppure il disastro è imminente. Naturalmente i 3,2 miliardi di dollari sarebbero da tagliare sui distretti scolastici e sugli ospedali, una cosa che peraltro fa venire i brividi naturalmente ai legislatori, perché questo vuol dire poi un immediato innalzamento delle tasse con conseguenti collegi elettorali furiosi nei confronti di chi li rappresenta. Però evidentemente anche dalla parte orientale, sulla costa orientale degli Stati Uniti, in questo momento le cose, quando si parla di quattrini, non vanno troppo bene. Peraltro riaffiorano anche a New York e dintorni, vogliamo parlare di New York in questa seconda parte di Buongiorno America, riaffiorano dei vecchi fantasmi, anzi delle vecchie buste, o per meglio dire delle polverine misteriose che sono state trovate da tre rappresentanze diplomatiche a New York, all'interno appunto di lettere recapitate dal postino la mattina, costringendo le autorità a procedere a immediata decontaminazione dei rispettivi dipendenti. Lo rende noto la polizia di New York, così tanto per alzare un po', no, il livello di ansia di una città che sembra fatta essenzialmente di ansia, ma che però poi, proprio nei momenti più critici, nei momenti più difficili, nel momento in cui è in bolletta come è adesso, perché fatevi un giro a New York di questi tempi e non troverete quello che uno pensa legittimo attendersi. New York è cambiata, al di fuori della quinta strada e di un raggio ristretto di benessere consolidato, rappresentato, no? Laddove New York diventa veramente la città a tema di se stesso, vedete una città invece in profondissima difficoltà. Poi però passate un ponticello assai famoso e vi ritrovate in un paradiso, se non altro in un paradiso intellettuale, creativo, dell'arte, dei bohemien. Andate a Brooklyn. C'è un gran giornale che esce a New York tutte le settimane, si chiama New York Magazine, da non confondere con il New Yorker, è il vero termometro della vita in città. Dedica la copertina di questa settimana per l'appunto a Brooklyn, dall'altra parte del ponte. Il titolo divertente è Brooklyn Calling, e ci spiega come, soprattutto dal punto di vista musicale, perché dal punto di vista artistico la notizia non è nuova da un bel pezzo, per motivi più che altro economici, gli atelier, i grandi spazi, no, creativi degli artisti newyorkesi, avevano deciso il trasloco verso Brooklyn, ma soprattutto in questo quartiere, nella parte soprattutto del quartiere più vicina a Manhattan, che guarda verso Manhattan, Brooklyn Heights per intenderci, si è creata nel frattempo una scena musicale che in questo momento domina le classifiche, domina anche un po' l'immaginario della musica statunitense, del pop statunitense. I nomi sono tanti, ve ne dico qualcuno: Animal Collective, Live, MGMT, che abbiamo ascoltato in chiusura della prima parte, Grizzly Bears, quelli che stiamo ascoltando in sottofondo, che si chiamano Dirty Projectors, e che sono un po' la band cardine, no? Una specie di laboratorio entra esci, dove passano personalità che poi creano altri sottogruppi e altri piccoli generi e sottogeneri, in una attività che forse non gode delle mille luci di New York, a cui Manhattan ci ha educato durante anni più splendidi. Qui le luci saranno soltanto 100, Manhattan sarà un po' lontano, ma il polo d'attrazione, soprattutto per le nuove generazioni, è fortissimo, e se permettete è anche piuttosto divertente che questo polo d'attrazione a fin fine abbia deciso di uscire una volta tanto da Manhattan e dai suoi fast food, dai suoi negozi costosissimi, griffati, e i restaurant dove non ti prenotano neanche un tavolino. A Brooklyn un tavolino lo trovate sempre. E c'è tanta televisione in questo momento sugli schermi americani, c'è tanta New York, c'è tanto New York sui giornali, sulle riviste. I New York Yankees hanno appena vinto le World Series, l'affare Letterman, che è proprio New York, spirito newyorkese, no, una spremuta di spirito newyorkese, catalizza i rotocalchi, i giornali di gossip. E poi, bene o male, si avvicinano due feste, il ringraziamento e Natale, e tra il ringraziamento e Natale per gli americani di tutta America, qualsiasi sia l'angolo da cui partono, è il momento in cui si pensa di fare, se avanzano quattro soldi, un weekend di shopping a New York, shopping spree, quello che si esce con le scarpe da tennis, si parte con i sacchetti già pronti e si passa la giornata a comprare, anche perché le offerte dei grandi magazzini newyorkesi sono particolari, hanno un oggettistica irripetibile, ma che ve lo dico a fare queste cose, secondo me molti di voi lo sanno. Quello che forse non sapete è che New York, come ascoltate in sottofondo, nella sua ansia di continuo rinnovamento sta pensando bene di trovarsi anche un nuovo inno, e quindi passa così, passa al classico definitivamente, il New York New York di Liza, di Frank Sinatra, che per anni ci ha accompagnato, perché è arrivato Jay-Z con questo Empire State of Mind con Alicia Keys, che naturalmente invoca, no? Inneggia proprio a New York, la giungla d'asfalto dove tutti i sogni possono diventare realtà. In buona sostanza arriva Natale e la voglia di New York, secondo me, anche da questa parte dell'oceano, così esplode. Questo è Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro La Corte. Abbiamo un email, buongiornoamerica@radio24.it, abbiamo una pagina Facebook, redazione Jefferson 3, una replica dopo mezzanotte, una diretta dopo l'una e mezza qui da Radio 24. State tutti benissimo.